Va ora in onda Lucciole nelle tenebre, da un'idea del presidio universitario Libera Bologna. Alla riscossa stupidi che i fiumi sono in piena. Ciao a tutti e benvenuti a una nuova puntata di Lucciole nelle tenebre. Oggi siamo Giulia e Valeria. Oggi parleremo della strage di Ustica. Il D19 dell'Itavia partì il 27 giugno del 1980 dall'aeroporto di Bologna verso Palermo. Però tra l'isola di Ponza e l'isola di Ustica scomparve dai radar e si inabissò nel mare e morirono 81 persone, cioè tutte le persone che erano a bordo. Allora, questa strage è, come molte stragi italiane, è molto piena di lati oscuri, cioè ci sono molte più cose che non sono chiare, che non si conoscono, di quelle che invece sono chiare. Allora, oggi parleremo appunto di questo e nella prima parte della puntata parleremo un po' delle dinamiche dell'incidente, se possiamo definirlo così. E poi nella seconda parte della puntata parleremo un po' dei depistaggi che ci sono stati nelle indagini. Adesso possiamo accennare che nel 1987 il ministro del tesoro, che era Amato, stanziò dei fondi per il recupero del relitto, quindi ben 7 anni dopo la strage, e venne incaricata del recupero dei relitti una società francese che andò a recuperare appunto l'aereo a 3700 metri di profondità dal mare. Però siccome i fondi non erano abbastanza sufficienti, ci furono due campagne di recupero, ecco, e la seconda avvenne nel 91. Poi dobbiamo dire anche che dopo che il relitto è stato utilizzato per le varie indagini, nel 2006 è stato portato qui a Bologna, dove nel 2007, anche grazie all'associazione delle vittime, dei familiari delle vittime, che si è molto mossa per questo, è nato il Museo per la Memoria di Ustica. Ma adesso vi lanciamo una canzone e poi ci ritroviamo tra poco. Francesco De Gregori con La storia siamo noi. La storia siamo noi, nessuno si senta offeso. Siamo noi questo prato di aghi sotto il cielo. La storia siamo noi, attenzione, nessuno si senta escluso. La storia siamo noi. Siamo noi queste onde nel mare. Questo rumore che rompe il silenzio, questo silenzio così duro da masticare. E poi ti dicono tutti sono uguali, tutti rubano nella stessa maniera. Ma è solo un modo per convincerti a restare chiuso dentro casa quando viene la sera. Però la storia non si ferma davvero davanti a un portone. La storia entra dentro le stanze, le brucia, la storia dà torto e dà ragione. La storia siamo noi, siamo noi che scriviamo le lettere, siamo noi che abbiamo tutto da vincere, tutto da perdere. E poi la gente, perché è la gente che fa la storia, quando si tratta di scegliere di andare, te la ritrovi tutta con gli occhi aperti, che sanno benissimo cosa fare. Quelli che hanno letto 1 milione di libri e quelli che non sanno nemmeno parlare. Era per questo che la storia dà i brividi, perché nessuno la può fermare. La storia siamo noi padri e figli, siamo noi bella ciao che partiamo. La storia non ha nascondigli, la storia non passa la mano. La storia siamo noi. Siamo noi questo piatto di grano. Allora, sin dalle prime battute di indagine, comunque negli anni successivi, furono 4 le ipotesi su quanto accaduto la sera del 27 di giugno. Una prima ipotesi subito smentita fu quella del cedimento strutturale, che portò anzi in pochi mesi al fallimento della compagnia Itavia. Una seconda ipotesi fu quella della bomba a bordo dell'aereo, avallata anche da una telefonata effettuata il 28 di giugno al Corriere della Sera, dove si dichiarava che a bordo si trovava Marco Affaticato, esponente dei NAR, i Nuclei Armati Rivoluzionari, la componente neofascista che poi sarà riconosciuta responsabile della strage alla stazione di Bologna del 2 agosto 1980. Le indagini e le perizie poi smentiranno la possibilità che l'aereo DC-9 sia stato abbattuto appunto da una bomba a bordo. In ogni caso, Marco Affaticato non poteva trovarsi a bordo perché in fuga dai suoi stessi compagni. Le due ipotesi che sono rimaste in piedi fino ad oggi sono la collisione con un aereo militare e l'abbattimento, questa è la tesi più accreditata fino ad ora, l'abbattimento del DC-9 tramite un missile aria-aria. Sì, su queste tesi c'è anche da dire che la commissione stragi, che fu istituita nel 1989, si spaccò su questo punto, si spaccò su due tesi diverse, cioè la tesi della bomba a bordo e la tesi del missile, nonostante ci furono vari periti che dissero che era molto più probabile un missile di una bomba a bordo. A confermare le ipotesi diciamo di area militare, vi è anche un episodio che ha delle coincidenze abbastanza particolari, soprattutto per quanto riguarda il profilo temporale. Infatti il 18 di luglio viene avvistata la caduta di un aereo militare, poi riconosciuto come un MiG-23 libico, a Castelsilano, in provincia di Crotone. Sul luogo dell'incidente arriva subito Vincenzo Inzolia, comandante della compagnia di Crotone, quello stesso Inzolia che la sera del 27 di giugno aveva chiamato per chiedere informazioni senza nessuna ragione apparente sulla rotta del DC-9. Vengono avviate subito le indagini, l'autopsia sul corpo del pilota non verrà subito effettuata fino all'arrivo del capitano Zeno Sascio, appunto capo del SIOS dell'aeronautica. In questa fase vengono anche effettuate le fotografie, le uniche fotografie al corpo del pilota, delle quali poi non si avrà più traccia. L'autopsia conferma che il cadavere si trovava in un avanzato stato di decomposizione e fa risalire la morte almeno a 15 giorni prima, appunto intorno alla data del 27 di giugno. Si avvia subito il procedimento di archiviazione, il velivolo, il MiG libico non viene mai sottoposto a sequestro e le carte ufficiali portano come motivazione dell'incidente o il malore del pilota o uno stato emotivo alterato o l'esaurimento del carburante. Ma diciamo vi sono molte circostanze che fanno pensare tutto il contrario. Innanzitutto vi è chi sostiene di aver visto fra le cartine geografiche e il documento d'identità del pilota un foglietto scritto a mano con la scritta, la dichiarazione "io responsabile dell'abbattimento dell'aereo civile italiano". In secondo luogo viene istituita una commissione italo-libica che porta come motivazione della presenza del MiG libico nei nostri cieli a un'esercitazione militare, ma ci troviamo in un periodo di Ramadan, dunque non soltanto di assoluto digiuno ma di rarissime esercitazioni militari. In terzo luogo abbiamo un ex soldato di leva che al giornale della Repubblica dichiara di aver fatto la guardia al relitto del MiG per 3 giorni proprio alla fine di giugno e che gli è stato riferito che il MiG era stato abbattuto proprio lo stesso giorno del DC-9. E infine abbiamo un contatto fra lo stesso capitano capo del SIOS Zeno Tascio con il capo della CIA di Roma Claridge ben 4 giorni prima del ufficiale ritrovamento del MiG. Per questo Rosario Priore, il PM che si occupò appunto dell'indagine su Ustica, scrive nella sua istruttoria come la caduta del MiG libico avvenne in un tempo tale da consentire il rinverimento del relitto, il contatto Tascio-Claridge, la preparazione e l'esecuzione della missione CIA, tutto ciò a conoscenza non solo del capitano del SIOS ma anche di una cerchia di ufficiali di questo secondo reparto, e dunque la caduta del MiG libico non si può che farla risalire a un periodo antecedente se non coincidente con la caduta del DC-9. Bene, dopo tutte queste informazioni molto, molto importanti e molto intense, tutte in questi pochi minuti, adesso vi lanciamo un'altra canzone. Abbiate molto pietà del mio inglese perché non sono molto in grado. Whiter Shade of Pale dei Procolarum. A dopo. Ci sono stati molti depistaggi, infatti ad esempio parlando dei radar dove vengono tracciati tutti i percorsi dei vari aerei che vengono segnalati con un numerino che viene dato loro, molti di questi tracciati radar sono stati fatti sparire, oppure cioè sono, magari alcuni sono spariti per anni e poi sono ricomparsi molti anni dopo, altri sono stati distrutti appositamente. Il radar di Marsala è sicuramente il più importante fra i centri radar, perché è quello che per il suo potere di controllo, appunto il medio e basso Tirreno, oltre che il canale di Sicilia, è quello che stava monitorando la rotta del DC9 prima della sua caduta. Ed è proprio nel radar di Marsala che le indagini, appunto come ha appena detto Giulia, troveranno delle incongruenze, delle omissioni, dei ritardi e anche ad esempio un vuoto di 8 minuti nella registrazione del radar della sera del 27 giugno, oppure una pagina strappata nei registri manuali. Poi, sempre a proposito di depistaggi, ci sono altre cose che non tornano, insomma. Ci sono stati molti testimoni oculari, perché molte persone hanno detto di aver visto che quella notte stava accadendo qualcosa in quel cielo. E molte di queste persone, molti di questi testimoni sono stati uccisi oppure hanno subito strani incidenti, anche aerei o incidenti stradali, e poi ci sono stati molti sospetti suicidi. E oggi vogliamo ricordare tre. I primi due sono il colonnello Mario Naldini e il colonnello Ivo Nutarelli. Questi due militari erano la notte in cui c'è stata la strage, erano su un aereo anche loro, e diedero l'allarme generale, fecero partire dal cielo appunto l'allarme generale, cioè che stava a indicare che appunto c'era qualcosa che non andava. E loro praticamente sono morti in un incidente nel 1988, ed è un incidente diventato molto famoso, l'incidente di Ramstein, dove praticamente c'è stato lo scontro tra le frecce tricolore, e loro infatti erano quelli che stavano guidando le frecce tricolore. Ed è anche molto strano che due piloti esperti si scontrino in quel modo e oltre a morire loro stessi provochino anche altre morti. E poi ricordiamo anche il tenente colonnello Sandro Marcucci, che è stato un altro testimone oculare, che morì in un incidente aereo nel 1992. Però in realtà sarebbero tantissime altre le persone da ricordare che appunto volevano raccontare qualcosa di Ustico, oppure erano magari anche grazie alle indagini che avevano portato alla scoperta che loro sapevano qualcosa, avrebbero dovuto raccontare qualcosa, ma sono stati, diciamo, zittiti. E a proposito di testimoni che raccontano qualcosa, c'è stata... Sì, la sera del 6 maggio dell'88, durante la trasmissione Telefono Giallo condotta da Corrado Augias, che si stava appunto trattando della strage di Ustica avvenuta 8 anni prima, la trasmissione viene interrotta da una telefonata anonima che vi facciamo ascoltare. Pronto? Sì. Mi sente? La sento. Scusi, piano, ma la sento. Riuscire ad arrivare in trasmissione, io ero una fiera in servizio a Marsala la sera dell'evento della caduta del 19. Purtroppo non mi volevano prima passare la telefonata perché gli elementi che comunico sono molto pesanti. Ad ogni modo, noi abbiamo esaminato le tracce, i 10 minuti di trasmissione di cui parlate, di registrazione, che non sono stati visti, non è vero, perché noi li abbiamo visti perfettamente. Soltanto che il giorno dopo il maresciallo responsabile del servizio ci disse che praticamente di farci gli affari nostri e di non avere più seguito sulla questione. Io dopo 10 anni, rivedendo la trasmissione, ho avuto questo fatto emotivo interiore di dover dire la verità anonimamente, perché cado nel nulla, però la verità è questa: ci fu ordinato di starci zitti, e la saluto e saluto anche l'onorevole Rodotà e tutti quelli che hanno cercato di dire la verità, perché non voglio rogne e non voglio far gentile buonanotte. Gentile amico, non attacchi, attaccate il telefono. Su questa telefonata indagherà Paolo Borsellino, allora capo alla procura di Marsala, che si farà dare l'elenco e interrogherà i militari in servizio la sera del 27 di giugno. Nonostante appunto questi interrogatori, Borsellino non riuscirà a creare o comunque ad apprendere degli elementi che facciano risalire al militare, appunto al soggetto che intervenne nella trasmissione. Ecco, oggi non abbiamo parlato dei processi che ci sono stati, perché molti, anzi tutti, sono finiti in un nulla di fatto. Ce n'è stato uno però che proprio negli ultimi tempi è arrivato a conclusione, è passato in giudicato. Sì, è una sentenza recentissima, del fine gennaio, 28 gennaio 2013. La Corte di Cassazione conferma la condanna in sede civile del Tribunale Civile di Palermo, che condanna lo Stato, in particolare i Ministeri della Difesa e dei Trasporti, a risarcire i familiari delle 81 vittime. È una sentenza molto importante, perché nonostante vi sia una condanna solo in sede civile e, come ha detto Giulia, non ci sono stati procedimenti che hanno rilevato responsabilità a livello penale, questa sentenza cerca in qualche modo di mettere dei punti fermi a tutta quanta la storia. Non solo parla di responsabilità e omissioni da parte dell'aeronautica militare e anche quindi di depistaggi che un procedimento penale aveva in realtà escluso, ma sostanzialmente avvalla le tesi o della collisione con un aereo militare o appunto quella del missile, sostenendo che il D-19 è stato abbattuto perché si trovava in una vera e propria azione di guerra nei nostri cieli. La sentenza, ci piace concludere insomma con le parole della sentenza questa puntata, appunto condanna lo Stato per non aver garantito con sufficienti controlli dei radar civili e militari la sicurezza dei cieli. Bene, vi lasciamo, dopo avervi lasciato probabilmente più dubbi che altro, sì. Con una canzone dei Marta sui tubi e di Lucio Dalla, Cromatica. Ci vediamo la prossima settimana. Ciao! Dove il rosso e il blu si accarezzavano, fu tutto viola per magia. Quando il giallo e il blu si intrappolarono, diventò tutto verde fino all'orizzonte. Giallo e rosso senza ipocrisia, decisero di entrare l'uno dentro l'altro, perché arancione dentro la voglia cresce, va in sé. Ma quando si trovarono di fronte, il verde e il viola riconobbero una sfumatura blu. Bianche nuvole di notte esplosero nel vento che ne fece un grande cielo azzurro. Prese il fiato da un respiro rose e poi lo regalò a quegli amanti che si nascondevano in un cuore nero. La luce e il cielo scoperchiò e accese tutto per vedere se ci sia sempre bisogno di un perché per far l'amore. Quando la cercarono, la luce fece un grande salto e fuggì via. Rosso e giallo andarono e al loro posto c'era solo un fuoco spento. Dove era verde, ora è solo erba finta che viola l'equilibrio dell'incanto. Il blu annegò in un grande mare tutto bianco. Da un respiro rose e poi lo regalò a quegli amanti che si nascondevano in un cuore nero. La luce e il cielo scoperchiò e accese tutto per vedere se ci sia sempre bisogno di un perché per fare